Yeah! Dai! Jim Tight, Satan! Ok! Madman! Ok! Jack the Smoker! Oh oh! Uzi Jungle! Papà! La connessione con Cagliari! Tutti a Milano, a casa! Yeah! Proof! DJ Yars! Fratello cane Zebrus ti accompagna all'ascolto. Ehi, è il Jamie Tights, il flow picchia duro come Killer Instinct. Quei due pezzi frate inutile che li registri. Scrivo due rime simpatiche, voi mille tristi. Al Monopoli prendevo i soldi, voi gli imprevisti. Rappo con Mad Jack, con te mai. Vita borderline, ma faccio solo roba pura come Butter White. Il tuo pezzo non gira, man, che svolte hai? Il mio pezzo devasta tutto come un poltergeist. Voglio solo l'erba come un diplodoco. Me ne foto se mi scordo le cose e vivo poco fuori luogo. Te l'ho detto, sei fuori gioco. La vita è una foto, sei venuto fuori fuoco. Nello stereo ancora noi. Quando suoni la gente esce fuori subito come una Polaroid. La nostra merda, so che almeno un po' la vuoi. Metti Haterproof nello stereo e torna a scuola, vuoi? E soprattutto quando c'è Uzi Giancana. Non ce n'è. Non ti dico manco il nome, Frari, ok. Tanto riconosci da Giancana, Frario UJ. Cazzo ancora parli di doppie rime e punchline. Se vi mangio come un matrimonio e non un brunch. Vedi di me, don me, Gemmo, Jack. I tuoi parenti il giorno dopo sono black on black. One, two, check, oh, check. Rimo spec, fumo spec. E ti affetto il culo come spec su spec. Yeah, mi trovi che la faccio, poi paf, paf. Meno male che il settaccio, scaff, scaff. Per te sono troppo americano, noi non ci lamentiamo. Ma quando ti sentiamo sembri raff, raff. Rime grosse come le teste degli spliff di Jam. Mentre tu stai fumando pneumatico Michelin. Rappresento C.A. e le do voce fre. Siamo come le rime nel tuo album, non ce n'è. Yeah, e quando cala Jack the Smithy, il fumatore, non ce n'è. Sono a prova di hater, Smizy hater proof. Dal momento che entra Smizy con ogni hater proof. Sbrano questo flow, sono Hannibal Lecter. Già da bambino nel cestino con grammi e palette. Fino alle panette verso 17. Ora mi amano tutti come culi, fiche e tette. Vinco qua, sono un cingolato, spingo rap. Mentre tu canti per gli infanti e gridi bimbo class. Sono nuova media, vecchia scuola. C'ero quando tu non c'eri, se tu muori io ci sarò ancora. Tu canti e fai quello anti, poi all'atto pratico. A furia di fare l'anti risulti antipatico. L'imperativo di oggi è make cash. Trasferito da Roma a Milano come make sass. Dentro il mercato sei la più troia. Lo succhi in giro così bene, sembri un tutorial. Non ce n'è, non ce n'è. Sono un eroe dei libri come William Tell. E quando rappo vibri come se ti squilla il ciel. Ogni mia rima è come milliampere. Proprio di un'altra dimensione come William Bell. Faccio rap perché il mio background. Step dopo step, young vet underground. Inarrestabile fra juggernaut. Se c'ho tre non mi piace perché te c'hai tre account. Col fumatore, fumo consumatore. Sono il futuro con un futuro da muratore. Ho rap e puratore, vuoi fare l'emulatore? Ti brucia sicuro e rinculo senza l'otturatore. Questo è Mortal Kombat della Midway. Ti cagliamo in due come i Lin Kuei. MG, pompa le casse. Hater proof, bomba classe. Yeah, no, non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è proprio. Non ce n'è. Non